Dario Ricci. Fuori dai giochi, come sappiamo, è il destino che sembra essere ormai scritto per la Russia dello sport, dopo la decisione del Comitato Olimpico Internazionale, ispirato dall'Agenzia Mondiale Antidoping, di escludere appunto lo sport russo dai giochi olimpici e da altre manifestazioni sportive internazionali per i prossimi 4 anni, a causa delle sistematiche e generalizzate violazioni da parte del laboratorio antidoping di Mosca. Il cuore nero, diciamo così, di un sistema che mira a coprire la positività di sportivi di diverse discipline. Caso giuridico ancora tutto aperto, visto che la Russia ha fatto ricorso contro questa sanzione pesantissima, così come è da capire come verrà poi declinata concretamente nei confronti di squadre e atleti individuali. Intanto però, qui a Olimpia, ritorniamo sull'argomento ascoltando le testimonianze di 2 grandi campioni dello sport azzurro, ori olimpici e ora allenatori di alto livello, che hanno intrecciato le loro vite e le loro carriere proprio con Mosca e lo sport russo. Прибыл председатель президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Леонид Ильич Брежнев. Nella Mosca di Brezhnev, allora, era il 1980, capitale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il nostro primo ospite ha vissuto la sua Olimpiade più bella, laureandosi campione olimpico ad appena 22 anni nel judo, categoria pesi leggeri, la stessa in cui sarà argento 4 anni dopo a Los Angeles. Разговаривал по телефону с премьер-министром Италии. Здесь у нас в России работает ваш гражданин. In un'altra Mosca invece, quella di oggi, ora capitale della Russia, ha invece ricevuto la cittadinanza russa dalle mani del presidente Vladimir Putin in persona, dopo aver guidato la nazionale russa di judo, sport di cui lo stesso Putin è praticante appassionato, alle sue prime medaglie olimpiche a Londra 2012 e Rio 2016. E allora, Ezio Gamba, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie. Gamba, si aspettava una sanzione così dura da parte del CIO nei confronti dell'intero sport russo? Io e la squadra non eravamo nemmeno al corrente che si stesse sviluppando una baraonda del genere. Comunque, secondo me bisogna essere assolutamente severi. Se ci sono stati dei fatti, devono assolutamente essere interpretati come una cosa importante, e quindi le sanzioni devono essere severe. Ecco, ci aiuti a capire un po' di più. Che tipo di rapporto quotidiano c'è, almeno nell'ambito della squadra di judo che lei dirige, con gli altri dirigenti, i medici, insomma con le figure di riferimento dell'apparato organizzativo russo? Autonomia totale, nel senso che gli atleti sono obbligati a fare una visita di controllo medica fatta dal Ministero della Salute russa 2 volte all'anno. Fine, qui termina l'influenza del Ministero della Salute nei confronti della squadra. Poi il resto è gestione mia, nel senso che io ho nella squadra i medici che fanno parte della squadra di ogni settore, cadetti, junior, senior, maschi, femmine, eccetera. Ciò che viene somministrato ai ragazzi è semplicemente ciò che è la necessità del momento, cioè se uno è influenzato gli viene data l'aspirina, in Russia non c'è l'aspirina, ci sono altri prodotti. Per quanto riguarda, diciamo, la nutrizione che può servire per il recupero degli atleti, eccetera, sono sali minerali, vitamine e aminoacidi. Questi sono i prodotti che io ho autorizzato fin dall'inizio, sono i prodotti che non sono mai stati indicati sotto la lista dei prodotti dopanti, quindi qui termina ogni tipo di influenza di materiali aggiunti e di prodotti aggiunti nei confronti della nostra squadra. Non abbiamo mai avuto nessun problema e di conseguenza nei nostri confronti non c'è mai stato nessun tipo di sanzione. Ecco, proprio a livello organizzativo invece come siete strutturati? Ma noi siamo in un certo senso un'isola felice. Io decido dove andiamo a fare gli allenamenti, quanto ci stiamo, il numero degli atleti e quant'altro. Di conseguenza non ci fermiamo mai più di 15-20 giorni in un posto, itineriamo in Russia, non abbiamo mai nessun tipo di contatto con nessun'altra disciplina sportiva, perché siamo un gruppo talmente numeroso. A oggi noi siamo circa 650 atleti, considerando le squadre cadette, junior, senior e under 23. maschi e femmine, per cui più o meno 300 i nostri atleti per gruppo maschile e femminile. E logicamente quando ci sono i collegiali, che sono per i grandi, sono circa 300 giorni all'anno, parlo dei senior, gli under 23 ne fanno più o meno 240, gli junior 180 e i cadetti più o meno 120, quindi questo periodo in cui si passa insieme, si passa tutti insieme, vuol dire che il collegiale comprende a periodi anche gruppi di 200-250 atleti, per cui è impensabile vivere in strutture dove ci siano altre nazionali. Quindi rapporti minimi e grande autonomia, mi pare di capire. Siamo fortunati proprio per questo, non c'è mai stato nessun tipo di pressione, nessun genere, proprio per il fatto che io sono stato tecnico scelto da presidente della Federazione Russa, unitamente a quella della Federazione Europea, Mondiale. Il presidente Putin logicamente è stato coinvolto, è stato artefice primo di questo cambiamento di rotta rispetto a un tempo, fino a prima di me, ma era stato coinvolto un tecnico straniero nella squadra di judo. La sentenza arrivata da Losanna, che impatto ha avuto sui suoi atleti? Adesso è un po' presto per dire, diciamo che comunque a Rio abbiamo vissuto la stessa sensazione, nel senso che abbiamo saputo di poter partecipare alle Olimpiadi una settimana prima dei giochi. Noi si va avanti, ci si allena come deve, continuiamo a fare le nostre competizioni senza nessun problema. Per il momento non abbiamo avuto nessun tipo di sanzione. Gli atleti che io seguo fanno mediamente 10-12 gare all'anno. Siccome quelli che faranno le Olimpiadi sono atleti di vertice, quindi in ogni gara più o meno sono in podio, sono sottoposti a controlli doping una volta ogni mese, più o meno. In più i controlli a sorpresa che vengono fatti durante gli allenamenti in qualsiasi parte del mondo, per cui sono tutti atleti super controllati e sotto il controllo della Federazione Mondiale di Judo. Di conseguenza per il momento non c'è stata data alcuna indicazione diversa rispetto a quello che abbiamo dovuto fare fino adesso, tant'è che fra 10 giorni ci sarà il Grand Prix in Israele, a Tel Aviv, e noi siamo presenti con la squadra completa sia maschile che femminile. Dopo ci sarà Parigi, Grand Slam, e anche lì abbiamo squadra completa maschile e femminile. Immagino possa essere più difficile preparare e motivare un atleta che non sa se potrà partecipare alle Olimpiadi, l'appuntamento che più di ogni altro vale una carriera. Ma io credo che per gli atleti non sia un peso, nel senso che l'atleta si allena, la manifestazione non è oggi, è domani, non è domani, è fra un mese o fra un anno, l'atleta va avanti per la sua strada, per cui se un domani non fosse possibile fare le Olimpiadi, io penso che nessuno degli atleti avrà il minimo problema, nel senso che dopo 8 mesi ci saranno i campionati del mondo, dopo 4 mesi saranno nuovamente i campionati d'Europa, Master, Grand Slam, eccetera, per cui sono atleti professionisti che vivono 300 giorni all'anno facendo questa cosa. Chi farà le Olimpiadi sono atleti che già da 7-8 anni girano il mondo con me facendo 300 giorni all'anno di lavoro, competizioni, allenamenti, quindi penso che non cambierà niente, sia che le facciano sia che non le facciano. Si ipotizzano a questo punto sanzioni generalizzate. È d'accordo o pensa sarebbero più giuste punizioni individuali per i soli coinvolti direttamente nei casi di doping? Non saprei dire. Io quando ho fatto le Olimpiadi di Mosca non ho saputo di poter partecipare fino a 15 giorni della gara e sinceramente dentro di me stavo quasi mollando, nel senso che a 15 giorni della gara poi dovendo fare il peso eccetera. Ora siamo ancora molto lontani dalle Olimpiadi, mancano circa 8 mesi, di conseguenza in questo momento nessuno penso si porrà il minimo problema, anche perché siamo ancora in periodo di qualifica olimpica, quindi ci sono una serie di tappe, ancora 8 gare di qualifica olimpica importantissime alle quali loro dovranno confermare il loro livello, e quindi nessuno di loro in questo momento sta pensando alle Olimpiadi o non alle Olimpiadi, stanno pensando a fare il percorso che gli permetterà di partecipare e di vincere le Olimpiadi se saranno in grado di farlo. Io penso che siano tutti discorsi prematuri, bisognerà vedere cosa salterà fuori, se come sembra ci sono state delle problematiche oggettive, è giusto che vengano prese delle decisioni importanti, serie e senza nessun tipo di permessi speciali o non permessi speciali, se ci sono stati problemi vanno secondo me stangati, radiati, cancellati i dirigenti, il ministro dello sport, il ministro della salute, allenatori, medici, cioè ragazzi, bisogna affrontare le cose come se questi fossero i nostri figli, quindi non vedo perché ci devono essere trattamenti di favore per qualcuno o per qualcun altro. Certo che chi ha risposto in modo corretto per 10, 12, 8, 6 anni facendo tutti i controlli doping una o due volte al mese senza mai aver avuto nessuna positività, mi sembra la prova evidente che questa sia una zona pulita, per cui dovranno probabilmente fare delle distinzioni tra quelli che sono puliti e quelli che non sono puliti. Ma non penso che sia solo un problema Russia, sia un problema del mondo. In conclusione, coach Gamba, ci tolga una curiosità, ma com'è Putin come judoka? È un judoka, uno che fa judo da più di 40 anni, per cui è chiaro che non vive in materassina quotidianamente perché ha altre priorità, per cui però ama venire in materassina almeno una, due volte all'anno o tre, ci sono stati dei momenti in cui è venuto anche più volte, a fare allenamento insieme agli atleti della sua nazione. Quindi una cosa positiva è che logicamente, essendo un appassionato di judo, li conosce per nome, per cognome, ne conosce la storia sportiva eccetera, per cui è un dialogo tra compagni di palestra, insomma, senza il rispetto del presidente. Sì, certo che il rispetto del presidente c'è, ma l'atteggiamento degli uni e degli altri è un atteggiamento di compagni di palestra. E allora, Ezio Gamba, in bocca al lupo comunque in vista di Tokyo 2020 e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, arrivederci. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Olimpia. Finale olimpica del fioretto maschile individuale. C'è un italiano, è Stefano Cerioni a sinistra, un azzurro. Ancora azione simultanea, tutti e due gli schermidori in bersaglio valido, non c'è stoccata, 9-7. Rucchier chiede a Cerioni di arretrare un pochino. La trova la stoccata, eccola, 10-7, bravo Stefano Cerioni, bravo Stefano Cerioni, medaglia d'oro olimpica nel fioretto maschile individuale. È stata una delle lame d'oro della nostra scherma, plurimedagliato olimpico e oro individuale nel fioretto a Seul 1988. Ma Stefano Cerioni, classe 1964, è stato anche tecnico di fioretto prima della nazionale italiana e poi per 4 stagioni di quella russa. Quasi naturale allora invitarlo qui a Olimpia per ragionare insieme di cosa aspetta lo sport russo dopo il bando sancito dal CIO da Olimpiadi e Mondiali per i prossimi 4 anni in seguito alle note violazioni di Mosca in materia di doping. E allora, Stefano Cerioni, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi dell'invito. Cerioni, si aspettava la sanzione WADA nei confronti di Mosca? No, assolutamente no. Da una parte c'era il sentore, perché ovviamente da quello che si è letto, da quello che si sa, poi dopo le campane sono sempre diverse, quando si è da una parte o dall'altra, anche se per quello che ho letto, per come sono informato, c'è da parte della WADA e da parte di tutti i membri l'idea di dare questa squalifica totale, o comunque se dovesse essere parziale, non si capisce ancora bene se per la scherma, le gare a squadre, le squadre potranno partecipare o solo degli atleti a livello individuale. Ecco, qual è stata la sua esperienza diretta sul campo? Lo sport della scherma, io nei 4 anni che sono stato lì non posso che dire di essere stato sempre tranquillo da quel punto di vista, perché ho controllato io e ho sempre tenuto sotto controllo sia i medici che erano lì con noi che gli atleti, e forse per la scherma non ha mai avuto dei grossi casi di doping, e quindi non ci sono probabilmente neanche delle sostanze che possono dare dei miglioramenti così notevoli nella prestazione dell'atleta, anche perché molti, nella mia esperienza sia in Italia che in Russia, che da atleta, tante volte gli atleti che avevano nei test fisici i migliori risultati non erano poi i migliori schermidori, perché nella scherma c'è bisogno di tante cose, non è solo la prestazione fisica, c'è quella mentale, c'è il momento, c'è la tattica, c'è la tecnica, e quindi forse non è lo sport più adatto per delle sostanze doping. Io comunque nei miei 4 anni che ho passato lì ho visto degli atleti che si allenano molto duramente, a cui puoi chiedere di allenarsi anche di più di quello che succede normalmente in altri paesi. Hanno una volontà e obbediscono a quello che è il direttore tecnico, l'allenatore, per cercare di arrivare al meglio. Il rapporto con i dirigenti com'era? Ma l'apparato dirigente, ci sono i vari, dal presidente ai membri della federazione che fanno il loro lavoro, dove ho sempre avuto dei contatti molto minimi, nel senso che c'erano delle occasioni in cui ci vedevamo, ma non l'importante per loro era che io riuscissi ad avere dei risultati. Non hanno interferito su quello che era la preparazione, mentre per quanto riguarda il settore medico e fisioterapisti ce l'avevo, avendo un centro federale dove lavoravamo giornalmente, e per praticamente ogni 2 mesi i ragazzi avevano una settimana di riposo dove andavano a casa, quindi tutto il lavoro veniva fatto all'interno del centro federale, dove erano presenti medici e fisioterapisti, ai quali io avevo chiesto di sapere qualsiasi problema, perché lì c'era all'inizio un po' il problema che non gli atleti non venivano a dirmi se stavano male o meno, per una paura che veniva da prima, che appena uno si sentiva poco bene era fuori squadra. E io ho detto: io devo portarvi all'appuntamento importante, al mondiale, all'europeo, all'olimpiade che sia, nella migliore condizione. Ditemi se state male, perché cerchiamo di fare una preparazione diversa a seconda del problema che c'è, per arrivare poi all'appuntamento che conta. E perché avevano questo terrore di dire che gli faceva male la schiena, il ginocchio, la caviglia, perché tempi addietro probabilmente chi stava male era fatto fuori immediatamente. E quindi questo è stato l'unico problema che ho avuto all'inizio, ma poi ho una buona collaborazione con tutto lo staff medico e con gli atleti, è andata molto meglio col proseguo degli anni, e nessun altro problema, insomma. Al sentire della sanzione inflitta alla Russia, gli appassionati di scherma hanno subito pensato a Inna Deriglazova, sublime fiorettista che lei ha guidato all'oro olimpico a Rio 2016 proprio contro Elisa Di Francisca, cioè la sua allieva prediletta, con cui aveva invece vinto il titolo a Londra 2012. Ma mi fa male perché conosco Inna e la Deriglazova e so quanto lavora e con quanto impegno lo fa da sempre. Nel momento in cui sono arrivato io, lei ancora non aveva vinto quello che poi avrebbe vinto negli anni, e l'ho vista sempre come un'atleta da esempio per le altre, per la costanza, per il lavoro quotidiano che ha sempre svolto, una persona che non, un atleta da prendere in esempio, come tante atlete nostre che abbiamo avuto, la Trillini, la Vezzali, la Di Francisca ora, cioè atlete che lavorano in una certa maniera, con tanto impegno, con tanta volontà, che sono le prime ad arrivare e le ultime a partire, insomma. Dovesse essere in pedana a Tokyo 2020 nella gara individuale, sarebbe quindi lei, Inna, la rivale principale della Di Francisca? Secondo me non c'è da focalizzarsi su un solo atleta, purtroppo e per fortuna nella scherma ci sono tanti atleti forti, si può perdere con chiunque perché i 3 minuti iniziali, 9 minuti al massimo sono velocissimi, quindi c'è bisogno di tante cose, e se si focalizza tutto su un'avversaria si rischia di prendere sotto gamba le altre. Bisogna andare passo dopo passo ad arrivare fino alla fine, e poi una volta arrivati lì bisogna vedere se dall'altra parte ci sarà la russa o ci sarà un'altra italiana o chi ci sarà, insomma. A proposito, come sta procedendo intanto la preparazione di Elisa? Da marzo dell'anno scorso abbiamo ricominciato, ha vinto l'europeo, il mondiale, una buona medaglia, muscolarmente sta migliorando, io penso che andremo in crescendo fino ad arrivare all'appuntamento olimpico, al top, per quello che è possibile. L'incremento muscolare è buono, anche la tenuta a livello fisico sta migliorando, quella mentale c'è sempre stata e fortunatamente Elisa è sempre molto forte dal punto di vista mentale, quindi cercheremo di arrivare lì con la tranquillità di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per arrivare al top, e poi è un giorno, gli assalti sono molto difficili, comunque il giorno dell'Olimpiade sappiamo bisogna essere in forma in quel momento e molto molto concentrati, e quindi cercheremo di fare di tutto per arrivare in quel momento al top. Stefano Cerioni, in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Crepi il lupo, grazie a voi per avermi invitato. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.